quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ero andato al governo convinto di avere la possibilità di cambiare l'Italia, di fare quella rivoluzione liberale che era ed è fondamentale per modernizzare il nostro paese. Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Perché non è possibile farci sottrarre dallo Stato una parte così elevata di ciò che tutti noi con fatica e sacrificio guadagniamo. I partiti che per 50 anni ci hanno governato, con difetti naturalmente, ma garantendo la crescita economica e mantenendo la democrazia e la libertà in Italia, hanno dovuto essere cinque e mettersi insieme per riuscire a formare una maggioranza e dare vita a un governo. È tornato Silvio Berlusconi con le canzoni cantate in francese, le barzellette, le corna. Ha fatto le corna a un bambino di noi. C'è questa foto da rapallo di un bambino che fa il segno della vittoria, avrà 10 anni, 11 anni. Io l'ho pubblicata sul mio profilo Twitter Alino Milan. E dietro c'è Berlusconi che gli fa le corna. A un bambino di 11 anni. Adesso dice che chiamerà George Bush per combattere politicamente Renzi, che quindi potrà stare tipo 80 anni al governo se George Bush è colui che lo deve abbattere. Vabbè, è tornato Berlusconi, si è fatto anche un capitombolo, ma si è rialzato. Ieri Libero titolava così: si rialza Berlusconi dopo che è caduto su una pedana di sinistra. Una pedana messa dalla sinistra. È una delle notizie più interessanti alle 6:35 minuti, quando si apre la 106esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. La elettorale invece ci siamo fermati. C'è Peter Bescapè in regia e c'è il nostro Alessandro Longoni oggi, che è stato sbrandato per venire qui. Onda, eccolo il tocco dentro, il vantaggio del Milan. Milano-Roma 2-0. Superato De Sanctis e batti a destro. Realizza il gol. Milano si rialza. Federico Novella, buongiorno. Milano si rialza. Fate attenzione. Sì, aspetta che sono al casello di testo. Ah, ecco. Sì, aspetta. Come va oggi? Signorina. Sì. Ce la saluti? Ma falle una domanda. Sì, aspetta. Chiedile se le ridanno la pensione. No, questa lavora. No. Ti ha detto arrivederci. Credo che fosse registrata, però mi spiace, non era in carne e ossa. Ah, va bene, tutto scorre. Come va il traffico? Radio Verità. La sbarra si è alzata, nonostante fosse una sbarra di sinistra. Sì. Ma no, tutto bene, c'è un po' di traffico stamattina. Ah, e anch'io lunedì noto che alle 5:20, quando vado in macchina, c'è più traffico, perché sono quelli che hanno finito la notte milanese, quindi... Allora, dici che sono quelli reduci dalla movida? Certo, può essere. È la movida della domenica sera. Sei contento per il tuo Milan? Sono contento anche per l'Inter di Alessandro Robecchi, che saluto, buongiorno. Eccolo qua, buongiorno a tutti. Milano rialza la testa. Qui si rialzano tutti, eh? Sì, Berlusconi che cade si rialza, l'Inter che si rialza, il Milan che si rialza, hai visto? Sei contento? Sì, sono i miracoli della primavera. Sì. Hai visto? Le pensioni che si rialzano. Ah no, quelle no. No, quelle no. Quelle no, non esagerare, non esagerare. Scusa. Ecco subito il polemico Federico Novella, vogliamo parlare delle pensioni, sì, ma te che te frega della pensione? Tanto tu in pensione non ci andrai. No, per carità, tanto a noi non ce la daranno mai la pensione, per carità. Però, insomma, sapete che se uno ritarda di un giorno ad Equitalia gli entrano dentro casa, e se invece lo Stato deve restituire i soldi che ha rubato, no, aspetta, no, te li ridò con i bot, te li ridò con la carta straccia, con lo Scottex, con la carta igienica, insomma, lo Stato una scusa la trova sempre. Lo Stato, e questo così, si fanno lo sconto, dai, si fanno lo sconto, e che problema c'è? Anche tu, Robecchi, vuoi fare il polemico su questo? No, noto che dai titoli dei giornali prima erano 5 milioni, poi 12, poi 19, quindi io mi sbrigherei a renderli prima che diventino 25, 30, 32. effettivamente sì, c'è questa cosa bizzarra per cui aumentano di giorno in giorno. A quanto ogni volta che fanno i conti aumentano. A quanto siamo arrivati? Sì, ma non c'è niente da ridere. Purtroppo non abbiamo molto da ridere, perché poi dopo i soldi sono nostri. Poi. Ma se vuoi ci mettiamo a piangere. Ma ti reuniamo il programma. No, cos'è che dici? Cos'è che hai detto, Robecchi? No, se vuoi ci mettiamo a piangere, però ti roviniamo il programma. No, effettivamente no, è meglio ridere. È meglio ridere. Cari pensionati, entro venerdì arriva la soluzione del governo, un po' annunciata da Padoan in un'intervista al Messaggero. C'è il decreto, c'è l'Europa che ci guarda, sempre che ci guarda con occhi un po' così. Fai la faccia da Europa cattiva, Novella, tu che... La sto facendo, più che ci guarda ci spia, è un'Europa così, grande fratello, diciamo. Però è abbastanza chiaro che non verranno dati indietro tutti i soldi. Questo è abbastanza questo ce l'aspettavamo un po', questa diciamo, è l'unica certezza. Lo Stato si fa lo sconto, questo è il titolo del secolo XIX, è il migliore di tutti di titolo, Novella, ti piace? Si fa lo sconto lo Stato. È la verità, perché poi devo dire una cosa, anche la famosa Corte Costituzionale, sì, qualche colpa ce l'ha, perché non è che ti puoi svegliare dopo quanti anni? Due anni? Dal 2011, 4 anni. Vabbè, però i tempi delle decisioni contano anche in questo caso. C'è stato un ricorso, cos'è il però, Robecchi? Nel senso che la Corte Costituzionale agisce su un ricorso, o il ricorso fa il suo iter e poi arriva. Io farei una proposta, se adesso fanno un decreto per renderne solo una parte, io glielo farei leggere subito alla Corte Costituzionale, non tra tre anni. Ecco. Capisci? Cioè, se i tempi sono questi e la Corte con una sentenza ti può svuotare i conti pubblici e tutti a dare la colpa ai precedenti governi, stiamo freschi. Tra l'altro, il Corriere credo che abbia intervistato ieri il manager della Standa che ha dato il via a tutti i ricorsi, cioè ha vinto una causa. E insomma ha portato la Corte Costituzionale a decidere che è così, insomma, che vanno restituiti tutti i soldi ai pensionati. Vabbè, ma allora scusate, spero che chi fa la denuncia di furto non venga scambiato per il ladro, ma vabbè, era una curiosità. Però Alessandro Robecchi, allora lo chiedo a te, tu sei al governo, tu sei Renzi, mettiti un attimo nei panni di Renzi, mettiti nei panni di Renzi, allora restituisci i soldi a tutti, devo dire questo è un provvedimento fatto da Monti e quindi dalla Fornero, tra l'altro oggi il Corriere, interessantissimo, con Gian Antonio Stella, pubblica tutti coloro che adesso dicono Renzi, e allora votarono in Parlamento questa legge, quindi tu sei Renzi, cosa fai? Restituisci i soldi a tutti, sforiamo il deficit del 3% e che... non lo so, e i conti pubblici? Dai, i conti pubblici, ma c'è, andiamo a prendere i soldi dove ci stanno, non dove non ci stanno, no? Non da quelli che prendono 1500 euro di pensione, ci sono famose case automobilistiche che hanno la sede fiscale a Londra e la sede legale in Olanda, e forse bisognerebbe andare a prenderli lì i soldi, no? Cioè, oppure da... Ma non capite, andiamo a prendere i soldi alla Fiat così, no, ma perché? Alla Fiat, in nome di che cosa? Aziende che pagano le tasse all'estero, o ai grandi manager che ci insegnano come fare la politica economica in Italia e poi hanno la cittadinanza svizzera e pagano le tasse a Londra. Il comunistone Romecchi, avanti! Ma no, non è questo. Ma neanche Raul Castro è più comunista come te. Il famoso refrain, i soldi non ci sono, è che i soldi non ci sono dove si vanno a cercare. Ma ci sono dei posti dove se li vai a cercare i soldi li trovi. Cerca che li trovi. Secondo me sì. Quindi paga tutti e cerca che li trovi. Io magari dico facessero una bella spending review, questo sì, visto che se ne parla. Tagliassero un po' di costi allo Stato, questo sicuramente. Sì, attenzione però che tagliare i costi allo Stato, come si è visto recentemente, è quel gioco delle tre carte per cui lo Stato taglia i soldi, taglia gli enti locali. Gli enti locali vengono da me e mi dicono: Robecchi, sai che c'è? Che siccome lo Stato ci ha tagliato i soldi, tu devo adesso le tasse. Esatto, quindi alla fine è il gioco delle tre carte. Esatto. Tu hai trovato qualcuno, se no, novella che paga, che non siamo noi? Conosci qualcuno che alla fine non paghi, che non siamo noi cittadini? Conosci qualcun altro? No. È svenuto. No, però è vero che i soldi se volessero li troverebbero. Il problema è che i tempi si allungano. L'altro giorno hanno indagato i vertici del CNL per consulenze d'oro. Mm-hmm. Ora dico, ma non doveva essere abolito il CNL? Mi sono perso qualcosa? In teoria sì. Ancora lì? Sì, in teoria sì. Perché qui aumentano le addizionali delle province. Ma le province non dovevano essere abolite, o almeno in parte non dovevano essere abolite. Il problema è che questi qua dicono che tagliano, ma in realtà poi ci presentano un conto più alto dell'anno precedente. Quindi ha ragione Robecchi. Tra parentesi, intanto segnalo Milan che a novella del comunista non glielo dai, a me sì. No, infatti, ma io ero basito, sei d'accordo con Robecchi, il comunista novella sta per entrare nella sbarra di Mediaset, fai una chiamata veloce al piantone lì. Me lo sono perso questo complimento. Segnalo anche due cosette, che bisognerà a questi poveretti che lavorano per le province, sia abolite che no, a giugno pagare gli stipendi e pare che invece se resta questo taglio da 1 miliardo non si sa come fare. E che il pubblico impiego ha i contratti bloccati da 5 anni è vero. E la Corte Costituzionale a giugno, quindi tra poco, dice, dovrà pronunciarsi anche su quello. Quindi vabbè. Comunque, visto che abbiamo due comunisti qui, ti faccio sentire chi non è neanche più comunista. Insomma, due comunistoni, Federico Novella e Alessandro Robecchi. Gli ultimi due. Pensate, pure uno che tutti direbbero essere comunista è andato dal Papa e ha detto questo, Raul Castro. Io, come l'ho già detto nel circolo dei dirigenti del mio paese, del Papa. Io leggo, l'ho già detto anche a loro, leggo tutti i discorsi del Santo Padre, del Papa, soprattutto i commenti che lui fa. E ho detto al Presidente del Consiglio, se il Papa continua a parlare così, prima o poi io ricomincerò a pregare e ritornerò alla Chiesa Cattolica. Eccolo lì, capito Robecchi e Novella, neanche Raul Castro è più comunista. Vabbè, però Arezzi, che gliene frega se il Papa è comunista, basta che non è civatiano. Ah, questo è vero, ma è vero, basta che non voti Fassina o Civati, e questo è vero. Capito Novella, manco Raul Castro è più comunista, l'ho scovati io gli ultimi due. Esatto, siamo l'ultima ridotta del comunismo, mi sembra giusto. Uno dei quali lavora pure a Mediaset, una quinta colonna. D'altronde ci vuole un po' di polifonia ideologica, no? Va bene. È così. Eccolo qua, Robecchi, arriva un messaggio da Massimo, moderno vetero comunista, abbasso il padrone, ma se paga lo stipendio va bene. Se paga lo stipendio va bene, se paga le tasse in Italia meglio ancora. Va bene ragazzi, è il momento del traffico, siamo con Federico Novella e Alessandro Robecchi, torniamo, due comunisti, uno juventino, Federico Novella, l'altro interista Alessandro Robecchi, quindi insomma un disastro totale, traffico e rientriamo. Mamma mia, non ce la faccio più e datemi questo benedetto traffico. 24 mattino. Com'è questa storia? Noi dobbiamo pagare i contributi, ma lo Stato non è obbligato a erogare presto le pensioni? Il cittadino deve, è un suo dovere, pagare le tasse, però non è un dovere per lo Stato erogare i servizi, le prestazioni? Ma io non pago più un cazzo, non pago più le tasse a questo punto. Pensate, facete un rispetto a Berlusconi togliendo il vitalizio. Chi lo si può leggere un culo che con il vitalizio, lo sapete, no? Alfano, invece di dire una marea di stronzate, di far lavorare gli immigranti gratis, che facciamo? Le piantagioni di cotone? Guarda, non ci sono parole, guarda. Beh, in effetti l'idea di Alfano, ahimè, potrebbe non essere male, anche perché se almeno li viene a lavorare non lavorano in nero. A proposito dei vitalizi, hanno rubato per 50 anni, ci hanno rubato anche le mutande e gli dobbiamo dare anche il vitalizio. Ma va, editoriale, novella era abbastanza chiaro, se non sbaglio. Sì, devo dire, sintetico, anche il tuo accompagnamento musicale era molto chiaro. Sì, molto... sì, non lo so, l'abbiamo censurato, però, hai visto, Robecchi, l'abbiamo censurato l'ultimo, non so cosa voleva dire. Esatto, effettivamente. Allora, è bella questa cosa, io non pago le tasse se lo Stato non ridà indietro le pensioni, però voglio tutte dire... le scuse sono buone. Diciamo. Sì, esatto, cioè, guardate che molti italiani non è che hanno bisogno di trovare queste scuse per così, sì, però capiamo l'arrabbiatura, vogliamo comprenderla l'arrabbiatura, sì. Sì, ma capiamo l'arrabbiatura. Volevo chiedere questo invece, sapete che c'è stata la marcia del Movimento 5 Stelle per il reddito minimo? Questo è un tema che abbiamo affrontato e magari lo riaffronteremo. Il reddito minimo, il Movimento 5 Stelle propone, pare che Sell adesso voglia anche appoggiare questa cosa, forse c'è anche qualcuno del PD che lo vuol fare. Dare 780 euro a ogni diciottenne cittadino comunitario, quindi anche europeo, perché l'Europa non ammette questo tipo di distinzioni. 780 euro per ogni diciottenne è il reddito minimo di cittadinanza. Robecchi, ti piace? Anche qui, se ci sono i soldi, tutto bene. Ma adesso non conosco nel dettaglio la proposta, quindi sulla cifra 780, 600, 750, non lo so. Di fatto è una cosa che c'è in tutta Europa e siamo forse tutta no. Sì, più o meno, sì, insomma, diciamo che i paesi con cui ci confrontiamo ce l'hanno, forse se invece facciamo la gara con la Lituania, per carità, però se facciamo la gara con la Francia, Gran Bretagna, Germania, eccetera, eccetera, quelli ce l'hanno. E quindi, insomma, non capisco perché noi no, ecco, se vogliamo essere a quei livelli lì, oltretutto... Ma non rischia di essere il classico sussidio che poi qualcuno vive di quello, qualcuno non so. Ma sai, in tutte le regole generali c'è sempre qualche particolare che non va, detto questo bisogna guardare la regola generale. Credo che un reddito di cittadinanza, per esempio, rilancerebbe i consumi un po' più di 80 euro al mese e soprattutto che allenterebbe un po' quelle disuguaglianze vergognose che al momento ci sono. Vabbè, insomma, Robecchi è a favore. Tu, novella, che no, dici? Io no, nel senso, adesso neanche io so quanto vorrebbero dare di reddito minimo, quali sono i particolari. Dice che la soglia minima di povertà è stabilita in 780 euro, e quindi quella è la cifra. Sì, però a parte il fatto che, come dici tu, qui da noi secondo me poi fioccherebbero i furbi che se ne approfittano, che ci marciano, però io sono sempre stato un po' contro questi interventi che sono un po' di natura, non voglio dire comunista, essendo io comunista. Infatti lì ti volevo, dico, com'è possibile, come sta argomentando il comunistone novella? Bisogna fare in modo di moltiplicare i posti di lavoro, sì. Non bisogna mettere dei limiti artificiali allo stipendio, facciamo in modo che ci siano posti di lavoro. Vabbè, però novella, c'è un problemino, cioè, nel senso che in questo paese ci sono 10 milioni di persone che ballano lì, 7 decisamente sotto la soglia di povertà e altri 3 milioni che se la battono proprio su quel limite. No, ma è incredibile, cioè il vogliamo pensare, ma soprattutto oppure... vogliamo pensare al caso di coscienza di novella, alle 6:30 comunista, alle 6:50 già abbandonato. Sono un comunista all'italiana. Vabbè, ma non è che sono entrato a Mediaset. Intanto è entrato a Mediaset, la sbarra si è alzata? Si è alzata anche oggi, mattino 5 salva. Siamo tolleranti, ragazzi, mica siamo in Rai. Ragazzi, si sa, come ha detto Berlusconi, che che forse l'80% dei miei giornalisti sono comunisti, dai, di sinistra. Sì, sì, anche sì. Un po' di più, anche un po' di più, diceva. Anche il 90, anche il 90. Allora, è la percentuale di pippe che c'è nel Milan. Eccolo là, ma perché devi fare le tue polemiche ridicole? Cioè, sei dell'Inter, tu ti rendi conto, sei dell'Inter. Sì, lo so, sei lo dell'Inter. Allora, a proposito, vi do due notizie in chiusura. Che sapete chi si candida per Forza Italia a Moncalieri sindaco? Sapete chi? No. Furino. Te lo ricordi? Furino, Giuseppe Furino, classe 46, gran centrocampista della Juve dai bei tempi. Lui, Giuseppe Furino. Se fossi suoi avversari elettorali metterei Panastini. Esatto, è un battutona di Robecchi. E poi c'è questa notizia sul Giorno, è fantastica, la notizia del giorno per l'appunto. Un avvocato ha fatto causa allo Stato perché vuole che il suo assistito al 41 bis possa ricevere i giornali porno, perché almeno al 41 bis non può entrare nulla, neanche un giornale. Diamoglieli. Robecchi, e perché? Perché diamoglieli. E diamoglieli. Vabbè, sì, diamoglieli perché l'ha deciso Robecchi. È un gesto umanitario. Al 41 bis si possono fare introdurre riviste pornografiche in carcere. E questo è il dibattito e la domandona con cui vi lascio. Che fai oggi, Federico? Oggi parliamo di immigrazione e di pensione. Ah, anche noi. Guarda che anche noi abbiamo registrato la Fornero, che sta a New York, è apparsa. Un po' arrabbiata. Sì, sì. E avremo anche il sottosegretario Zanetti, quello che ha detto non si possono ridare a tutti, caro Robecchi. Ma la Fornero non stava così in spolvero da anni. Sta bene, sono contento per lei. Allora vi saluto Robecchi, Novella, comunisti a metà, interisti e juventini sul serio. Alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Voci dal Giro. Speciale Giro d'Italia, vittoria italiana di Elieve Viani nella prima tappa in linea del Giro d'Italia. Sentiamo cosa è successo. Ieri a Genova è il primo urlo di gioia tutto nostro, tutto italiano, tutto di Elieve Viani, che dedica la vittoria al suo massaggiatore scomparso troppo presto e a tutte le mamme, in particolare alla sua. Bella vittoria quella di Elieve, lui che è abituato a vincere, visto che in pista è un vero drago, con i suoi 13 titoli italiani, 3 titoli europei, più 2 secondi, un terzo mondiale e un quarto alle Olimpiadi. Vince e festeggia con gli inglesi del Team Sky, la nuova squadra. Vince e vorrebbe tornare a vincere oggi nella Rapallo Sestri Levante di 136 km che l'australiano Michael Matthews correrà in maglia rosa. Arrivo pianeggiante con gli ultimi 7 km sulla via Aurelia prima del rettilineo finale a Sestri Levante. Ma prima di raggiungere la costa, la tappa si snoda nell'entroterra ligure e attraverso 2 gran premi della montagna, il primo di terza categoria, l'altro di seconda. Da qui mancheranno 43 km all'arrivo, da fare in picchiata verso Chiavari e poi accanto alla Riviera Ligure. Giornata nel complesso impegnativa, il giro inizia a fare sul serio. Piergusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Rapallo. Ed è tutto per questo primo appuntamento con il Giro, il prossimo certamente in tutti i convocati oggi alle 14. Voci dal Giro, in collaborazione con... Fai fare alla tua attività lo scatto vincente. Vai su ingiroperlavoro.it. Puoi vincere il nuovo Citroen Berlingo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ci siamo, cari italiani, la settimana numero 106, decisiva per l'abolizione delle province, è già cominciata. Ovviamente, come sapete, la riforma elettorale c'è stata e quindi ci fermiamo alla settimana numero 105. Ma la 106esima settimana decisiva per abolire le province c'è e lotta insieme a noi a partire da oggi. Noi invece parleremo di questa matassa complicata delle pensioni. Allora avremo il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, colui che se non altro ha avuto il merito, secondo me politicamente per primo, di annunciare: cari pensionati, i soldi indietro tutti non li rivedrete, è immorale e ingiusto. Certo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, questo, parleremo di questo con Zanetti. Com'è possibile che uno Stato non rispetti una sentenza della Corte Costituzionale? Che lo Stato si faccia lo sconto sulle pensioni, perché questo ormai è certo, non verranno restituiti a tutti ciò che è stato bloccato con l'indicizzazione delle pensioni nella riforma Fornero. E tra l'altro, oltre a Zanetti, avremo anche un contributo di Elsa Fornero, l'ex ministro, ai nostri microfoni. Allora, dalle 8.15, poi parleremo di Rom a Roma. Sapete quanto paga il comune di Roma per ogni famiglia Rom? Ve lo diremo alle 8.40. Ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 11 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì apre sul 7.30, immobili, coniugi, contributi, le trappole del nuovo 7.30. Per il Corriere della Sera invece, migranti, i limiti dell'Unione Europea all'Italia. Si discute sulle quote di extracomunitari da dividere tra tutti gli stati membri da qualche giorno. Per Repubblica c'è una notizia che viene messa in prima pagina ed è questa: ecco il piano delle telecomunicazioni, banda ultralarga all'Enel. Telecom non basta più, il governo vuole affidare all'Enel il piano per la banda ultralarga, così giura Repubblica. Per La Stampa, Bruxelles dice sì allo sconto all'Italia sui conti pubblici. Il Messaggero invece: pensioni, rimborsi a giugno. Il Giornale invece titola: Renzi si tiene le pensioni. Voglio però partire come al solito da qualche notizia anche un po' curiosa e particolare. Una l'ho letta in prima pagina del Giornale e riguarda Gianfranco Fini, ex ministro, ed è questa la notizia. Che fate? Mi rifiutate? Fini cacciato dagli ex AN. L'ultima vicenda che riguarda Gianfranco Fini la racconta Giuseppe Alberto Falci a pagina 5 del Giornale ed è questa. Gianfranco Fini ha chiesto la tessera della fondazione di AN, cioè la fondazione che amministra il patrimonio del suo ex partito, ma la richiesta è stata respinta per indegnità morale. È abbastanza clamorosa questa vicenda, nonostante Italo Bocchino, Gianni Alemanno, anche Francesco Storace si siano detti d'accordo al tesseramento di Gianfranco Fini, la stragrande maggioranza dei soci ha detto no. Qualcuno gli ha rinfacciato di essere stato un traditore politico di Berlusconi, qualcuno di aver gestito il partito come un affare di famiglia, ricordate la casa di Monte Carlo, altri gli hanno rinfacciato di essersi legato ai professori Monti e Fornero, dunque al governo tecnico, quelli che hanno tagliato le pensioni, e dopo giorni di discussione è arrivata la sentenza: indegnità morale, rifiutata la tessera della fondazione di AN a Gianfranco Fini. E questa la trovate sul Giornale. A proposito di invece politici o figli di politici che ne hanno fatta, che stanno vivendo qualche momento di difficoltà, beh, leggo a questa la notizia che riguarda il figlio di Denis Verdini. La trovate, la scritta La Nazione, rilanciata oggi dal Fatto Quotidiano e dal Messaggero, che ha fatto il figlio di Denis Verdini, Tommaso Verdini. È successo che ha parcheggiato, leggo dal Fatto Quotidiano a pagina 2, ha parcheggiato la propria macchina, la propria vettura in una piazza dove era vietata la sosta nella sua città. E che è successo? Si è trovato le ganasce. Succede. Si è trovato le ganasce, il figlio di Verdini, e lui che ha fatto? Non si è perso d'animo, con alcuni amici ha forzato le ganasce ed è ripartito con auto e ganasce, se le ha riportate a casa. E vabbè, io so io e voi, come era quella del grillo. Vabbè, ci siamo capiti. Allora, questo per quel che riguarda politici. È interessante ciò che scrive invece il Messaggero, riguarda ancora la questione dei vitalizi d'oro. Questa vicenda riguarda i vitalizi d'oro della Regione Lazio. Attenzione, attenzione, racconta Diodato Pirone a pagina 5 del Messaggero. Chi fa ricorso contro il taglio dei vitalizi alla Regione Lazio rischia di doverli restituire. È una vicenda abbastanza intricata, è una svolta a sorpresa per quegli ex consiglieri della Regione Lazio che si sono mossi facendo ricorso contro i tagli del vitalizio. 78 sono gli ex consiglieri regionali che hanno fatto ricorso contro i tagli al vitalizio, ma rischiano, scrive il Messaggero, un clamoroso autogol. Perché il 14 maggio il TAR avvierà l'esame della causa, ma se dovesse accogliere un controricorso presentato dall'ufficio legale del Movimento 5 Stelle della Regione, gli stessi consiglieri e probabilmente anche altri, gli altri 193 che non hanno fatto ricorso, potrebbero essere chiamati a restituire almeno la metà dei vitalizi incassati dal 98 in poi. Si tratterebbe di decine di migliaia di euro per ognuno dei 271 ex consiglieri. E dunque, per il Movimento 5 Stelle c'è un caso chiaro di incostituzionalità in che cosa? Nella legge del Lazio, per la quale i vitalizi erano calcolati non sui guadagni, ma anche sulle spese dei consiglieri, cioè sulla diaria, sulle spese dei pasti e degli alloggi. Un caso veramente scandaloso, tanto che nessun'altra regione, scrive il Messaggero, ha mai osato tanto. La diaria come base di calcolo del vitalizio ha portato come risultato al raddoppio del vitalizio stesso. Siccome tutto ciò è incostituzionale, il Movimento 5 Stelle ha fatto un ricorso e c'è il rischio che queste persone che hanno fatto ricorso loro perché gli hanno tolto il vitalizio debbano invece alla fine restituire ciò che è stato dato loro indebitamente in tutti questi anni. Questo almeno racconta il Messaggero a pagina 5. Indovinate per chi noi tifiamo, per chi qua a 24 mattino tifiamo per quel che riguarda chi vincerà o chi perderà in questa causa. Vabbè, voglio fare un salto in Finlandia e raccontare quello che secondo me Federica Seneghini a pagina 27 del Corriere della Sera racconta in modo molto interessante. In Finlandia abbiamo raccontato molto spesso che secondo tutti gli indici e secondo tutti i test che vengono fatti a livello internazionale ci sono gli studenti più efficienti, più bravi, più preparati, anche frutto di un modello di scuola evidentemente all'avanguardia. E allora, che cosa si studia per esempio in Finlandia? Si studia economia domestica e non lo si studia da poco tempo, la si studia da tanti anni. Il Corriere racconta, con tanto di foto, così ragazzi finlandesi imparano a stirare in classe. C'è anche questo nello studio di economia domestica. Sono le 11 e a Murame, cuore della Finlandia, nell'aula K03 della scuola statale Nisulanmaki, 15-13enni posano i libri sui banchi e indossano i grembiuli. Ognuno ha un compito preciso. Una scarica la lavastoviglie. Due apparecchiano posizionando piatti, posate, bicchieri. Altri due aspettano che il ferro si scaldi prima di stirare tovaglie e tovaglioli. Ecco, così si insegna economia domestica. Assomiglia a un grande monolocale quest'aula. C'è una lavatrice, un'asciugatrice, un frigo, lavandino, piastre elettriche, un forno nel quale Petrus ha appena infilato una teglia di ciambelle. La scorsa settimana, dice l'insegnante, hanno imparato come si fa un buon pranzo di Pasqua. Oggi bisognerà pensare alla prossima cena. Gli studenti decidono il menù, quello che vogliono imparare. Io faccio la spesa, i ragazzi obbediscono, sono tutti scalzi, come in qualsiasi casa finlandese, e forse anche questo contribuisce a rendere l'atmosfera più familiare. Eccolo qui, il corso di economia domestica. Economia domestica, proprio a 11 anni iniziano a fare i lavori di casa. Così i ragazzi finlandesi imparano a stirare in classe. Leggetelo, pagina 27 del Corriere, e provate a pensare se si volesse introdurre una cosa del genere nella scuola italiana, i sindacati. Vabbè. Allora, ma siamo al momento che ci fa tenere le mani ben strette sul volante. L'articolo che ci fa di questa giornata per iniziare bene la settimana lo scrive Sergio Rizzo nell'inserto Corriere Economia del Corriere della Sera. Regioni e sprechi. 7 dipendenti per ogni consigliere. Quanta gente occupata nei consigli regionali dalla Val d'Aosta alla Sicilia? Si chiede Rizzo. Ebbene, la risposta è che nessuno precisamente lo sa. Ci sono i dipendenti fissi, il personale delle segreterie politiche, quelli ingaggiati dai gruppi, una selva di numeri con la sola certezza della impenetrabilità. Così non resta che affidarsi alle stime. Le stime, secondo una relazione sui costi della politica contenuta nel dossier dell'ex commissario alla Spending Review, Cottarelli ci dice che nel 2012 la spesa per il solo personale dipendente è stata di 359 milioni. Il che significa, sulla base del costo medio dei dipendenti di quel comparto, circa 7.200 individui. E siccome i consiglieri regionali sono poco più di un migliaio, se ne ricava un rapporto di 7 dipendenti per ogni consigliere regionale. Uno sproposito! Pensate che i dipendenti fissi della Camera sono 1.300. Se dividiamo questa cifra per i 630 deputati otteniamo un rapporto di 2 a 1 o poco più, 2 dipendenti ogni parlamentare. Secondo queste stime invece per il Corriere 7 dipendenti per ogni consigliere regionale. E poi vogliono abolire le province. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi cazzo! Alessandro Milan, il Pippo Inzaghi dell'informazione. Vabbè, dai, abbiamo vinto almeno sabato contro la Roma e quindi abbiamo sollevato un po' la testa. Con che entusiasmo lo raccontiamo noi del Milan. Noi qua alla redazione di 24 Mattino siamo tutti del Milan e andiamo. Allora, l'ho detto perché di là del vetro esultavano tutti. Allora, che succederà alle pensioni? Questa è la domanda che si pongono tutti i pensionati, ma non solo, perché questa decisione incide sui conti pubblici. Ormai la vicenda la sapete, la approfondiremo alle 8:15. La legge Fornero ha bloccato per 2 anni l'indicizzazione delle pensioni. La Corte Costituzionale ha bocciato di recente questa normativa e quindi bisogna restituire a tutti i pensionati questi soldi. Ma non succederà, state tranquilli, a tutti non arriveranno i soldi. Il titolo più efficace del secolo XIX oggi è questo: lo Stato si fa lo sconto. Certo, voi direte, e ha ragione, ma come? Se io devo 100 euro all'Agenzia delle Entrate non è che posso dirgli ve ne do 50, il resto mancia. Ma è così, ci sono i conti pubblici da guardare. E quindi il Corriere della Sera, pensioni, rimborsi parziali, una tantum, questo è il titolo di pagina 6, racconta che l'incertezza durerà pochi giorni ancora. Entro la settimana, infatti, il governo varerà un decreto sulle pensioni per assecondare la sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il blocco della perequazione delle pensioni 2012-2013. Lavoreremo per rispettare sia la sentenza che gli impegni verso i partner europei. Così dicono al Tesoro. Ieri il ministro Padoan ha fatto un'intervista al Messaggero. La restituzione della mancata perequazione sarà selettiva e parziale. Lo spazio di manovra per evitare gli strali di Bruxelles, che secondo fonti europee nelle raccomandazioni di mercoledì metterà l'Italia sotto monitoraggio per capire l'impatto della sentenza, è dunque strettissimo. Il governo, per rispettare la regola del debito, dovrebbe mantenere il rapporto deficit-PIL a 2,6%, quindi sulla carta avrebbe a disposizione solo il tesoretto da 1,6 miliardi e taglia la spesa ancora da definire. L'idea comunque è che non verranno restituiti tutti i soldi del blocco dell'indicizzazione delle pensioni. Il giornale titola infatti in prima pagina: Renzi si tiene le pensioni. Il dubbio è, e lo pone anche il Sole 24 Ore in prima pagina, rispettare una sentenza, quindi i diritti dei pensionati, o tenere i conti in ordine. Pare che sia una delle due l'una, per come siamo messi. Certo, voi potreste anche dire risparmiamo da altra parte e ridiamo indietro ciò che la Corte Costituzionale ha detto va ridato indietro ai pensionati. Sono tutte questioni legittime. Interessante ciò che Gian Antonio Stella racconta a pagina 8. La politica, sapete, è il regno dove la memoria non esiste. Dura semmai un giorno, 2 giorni, poi ci si dimentica di tutto. Ebbene, Gian Antonio Stella oggi a pagina 8 fa un articolo nel quale racconta tutti coloro che oggi tuonano contro il governo a dire ridate i soldi ai pensionati, vergogna, vergogna, e nel 2011 votarono in Parlamento la legge Fornero, cioè quella per la quale oggi dobbiamo ridare i soldi ai pensionati. Renzi e Padoan non giochino sulla pelle dei truffati della Fornero, giù le mani dalle pensioni, lo scrive in un tweet la deputata Barbara Saltamartini, che il 16 dicembre 2011 benedisse quella truffa votando a favore. Solo i morti e gli stupidi non cambiano mai idea, disse il poeta James Russell Lowell. Giusto, scrive Stella, ma è divertente sentire oggi gli urrà per la sentenza della Consulta, le ringhiose ingiunzioni al governo perché rispetti immediatamente il verdetto a dispetto dello squarcio dei conti pubblici, confrontando tutto questo con il voto e le parole di 4 anni fa. E scrive Stella: sia chiaro, non vale per tutti. Leghisti e dipietristi che si schierarono contro la legge Fornero hanno a buon diritto a rivendicare l'avevamo detto, così come Alessandra Mussolini, che disse voterò no alla fiducia e no alla manovra. Alcuni si astennero, come Antonio Martino, Sandro Biasiotti, Micaela Biancofiore, altri per motivi diversi risultarono assenti, la Gelmini, la Russa, Tremonti, la Brambilla, ma nella stragrande maggioranza, quanti oggi esultano per la tegola cascata in testa al governo Renzi, contribuirono attivamente al varo di quella legge. Votò a favore l'attuale capogruppo del Forza Italia Brunetta, che oggi esulta: Renzi in un mare di guai, c'è un buco di 20 miliardi nel DEF. Votò a favore Osvaldo Napoli, che oggi bacchetta: il governo Monti ha scelto di tagliare il nodo previdenziale con un atto autoritativo. Votò a favore Francesco Paolo Sisto, che ieri ha sancito: ognuno può interpretare le cose a modo suo, ma le sentenze della Corte Costituzionale si rispettano. E votò ancora a favore Giorgia Meloni, che oggi alla guida di Fratelli d'Italia assicura che il suo partito metterà a disposizione dei pensionati avvocati per fare tutti i ricorsi che serviranno. Ecco, Gian Antonio Stella racconta tutto ciò a pagina 8. Certo, l'Europa, come detto mercoledì, deve dare le osservazioni sui conti pubblici italiani, e Roberto Petrini racconta a pagina 6 che l'Europa ci avverte: con l'incognita pensioni, il deficit flessibile a rischio. Ecco l'idea che ci metterà sotto monitoraggio, e cioè vi controlliamo perché stiamo a vedere come gestite la questione rimborsi delle pensioni. Anche Lamberto Dini parla, colui che fece la riforma nel 95 delle pensioni introducendo il metodo contributivo nel calcolo della pensione, parla con Il Giorno. Alessia Gozzi lo intervista a pagina 3. Colpire i pensionati è atto di viltà, dice Lamberto Dini, un atto per cui si può usare questa parola: le sentenze si applicano, gli effetti della sentenza sono molto onerosi, ma la sentenza va rispettata. Quindi pagare tutto, il governo non può disattendere l'applicazione del verdetto. Così Lamberto Dini sul Giorno. In tutto questo l'Europa ci guarda, ci controlla, vede, scruta cosa faremo sulle pensioni. Secondo però Marco Zatterin, pagina 4 della Stampa, per quel che riguarda il resto dei conti, l'Europa apre all'Italia. Sui conti pubblici uno sconto da 6 miliardi, ci saranno dall'Unione Europea 6 raccomandazioni al governo, manovra di correzione da 2 miliardi anziché 8, controlleremo ovviamente su Consulta e Previdenza. Sono tutte le anticipazioni di quello che farà l'Europa mercoledì sui conti pubblici, e dovremo ovviamente attendere. Mentre per quel che riguarda l'economia, sapete che c'è stata la marcia, soprattutto il Movimento 5 Stelle, la marcia da Assisi a Perugia, credo, per rilanciare il tema del reddito minimo di cittadinanza, un progetto che ora, racconta Repubblica, oltre al Movimento 5 Stelle raccoglie qualche sodale anche tra SEL in Parlamento. SEL e Grillini dicono: ci sono i voti per dire sì al reddito minimo. Nasce dunque un fronte al Senato, si guarda anche al Partito Democratico se è vero che Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, fa un'intervista alla Stampa e dice: sì, parlo col PD, ma il reddito di cittadinanza deve essere di 780 euro. Intervistato da Francesco Maesano, dice: in commissione iniziano a presentare gli emendamenti senza ritardi, li vaglieremo e se non si toccano i 780 euro al mese si può discutere su tutto. Perché questa cifra? perché 780 euro è la soglia di povertà certificata, risponde Di Maio. Ci sono tanti professionisti, pensionati e disoccupati che guadagnano di meno, hanno diritto alla dignità. E le coperture? Beh, le coperture le possiamo discutere, ma devono arrivare le proposte ai 780 euro. Scusi, ma lei parla col PD perché sabato Grillo, parlando di questa proposta di Speranza, Roberto Speranza, ha detto: io non dialogo col nulla. Lei invece ha ribadito che siete disposti al dialogo. Qual è la linea del movimento? Risponde Di Maio: la linea è far approvare la legge, per farla approvare serve la maggioranza, non la minoranza del PD. A noi servono i numeri in Parlamento per approvarla, mentre Speranza al massimo al suo voto e neanche più quello di Civati. Invece l'appello è: Poletti, bene, se siamo d'accordo approviamola. Noi lanciamo la sfida al governo, vuole aiutare 10 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà? Lanciamo questo reddito di cittadinanza. Non lo diamo a Mauro Meazza, lo dico subito, non lo diamo a Mauro Meazza, che però saluto. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Beh, ma neanche a te, considerato, neanche a me, neanche a me. Considerato il sontuoso emolumento di cui puoi giovarti, no? Immagino, ecco. Io distribuisco redditi minimi di cittadinanza al primo, esatto, che passa. Parte di quei due urini che tu tieni immobilizzati, chiaramente, che sono, insomma, i tuoi cospicui risparmi verranno invece utilizzati per distribuire giustamente il reddito di cittadinanza, oppure per rimborsare le pensioni. So che appunto hai già ricordato il dilemma delle pensioni, il dubbio amletico tra come dire, salvare i conti o salvare i diritti. Esatto. E facciamo un resoconto, come hai visto nelle pagine interne, delle decisioni dell'uno e dell'altro segno, dell'uno e dell'altro segno che la Corte Costituzionale ha preso in questi decenni. Ma tutto questo ti spiega bene Matteo Prioschi. Io invece ti vorrei intrattenere con un numero. 730. Il titolo di prima pagina, tutte le magagne del 730. Il titolo di prima pagina e non solo in prima pagina. Allora, innanzitutto, il precompilato, attenzione, potrebbero esserci dei dati che, pur provenendo dalle banche dati in amministrazione, non sono corretti. Guardateci dentro, questo è il nostro consiglio. Abbiamo anche una serie di schede che indicano dove potrebbero annidarsi i vizi, i bachi in qualche modo, e come si fa a verificare che il numero riportato sia quello corretto. Questo è importante specialmente se vuoi fare da te. Tu vuoi fare da te? Se io faccio da te, faccio danni sicuro. Se faccio da me, che tu voglia o non voglia, caro, comunque poi probabilmente potresti anche parlarne. È vero che vedi Zanetti, ma non il capitano, no? No, già avevo sottosegretario d'economia Zanetti. Ah, no, perché già Zanetti al Milan era una cosa che mi turbava. Zanetti, no. No, invece si tratta di Enrico Zanetti, sì, ovviamente. Sì. Che ti dovrà parlare delle pensioni, tra le altre cose, mi pare. Immagino di sì. Ecco, ma lui è un esperto anche di 730, puoi farti consigliare. Volevo dirti però che un consiglio ti viene anche dal Sole 24 Ore, perché oggi con il nostro ebook, sai, quello che puoi ottenere con il codice che riportiamo nell'esperto risponde, bene, oggi è proprio dedicato ai dubbi sul 730, caro Milan. Sì. E poi di 730 parleranno anche le amiche Rosciani e Carbone a Cuore Denari più tardi nella mattinata. Quindi, insomma, cerchiamo di aiutarti come si può, Alessandro. Poi chiaro che potete arrivare fino a un certo punto, poi dopo possiamo fare esattamente i miracoli non siamo ancora attrezzati a farli. Ecco, ad esempio, sarebbe miracoloso se riuscissimo a rimediare alla questione rate non pagate che continuano a crescere. Sul Sole 24 Ore oggi spieghiamo che ci sarebbero 56 miliardi di rate non pagate, sono cresciute enormemente. Questa non è una buona notizia. Un po' migliore il fatto che invece i grandi studi legali stanno in ripresa, stanno riprendendo, chissà che questo sia un segnale positivo. Chissà. E infine ti voglio dire, potresti comunque utilizzare il TFR in busta, non è il tuo caso, tu lavori in una grande azienda, ma anche se lavori in una piccola azienda, ti spieghiamo oggi nelle pagine Norme e Tributi, spieghiamo dettagliatamente l'effetto TFR in busta con appunto quando si tratta di una piccola azienda. E tutto ciò premesso, caro, molti saluti a Zanetti, sia Titano che naturalmente anche in fuori gioco, sì, anche naturalmente, e anche Enrico Zanetti, e a tutto questo, a questo punto, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan con la sua sexy voce ti svegli ogni mattina. Vabbè. Voglio andare su Repubblica. Grazie cara ascoltatrice. Voglio andare su Repubblica. In prima pagina c'è infatti una notizia che viene messa in ampio risalto. È il titolo principale, cioè ecco il piano delle telecomunicazioni, la banda ultralarga all'Enel. Telecom non basta più, è tutto il piano anticipato da Claudio Tito a pagina 2 e 3 di come il governo voglia affidare all'Enel le chiavi del progetto sulla banda ultralarga. Telecom messa all'angolo. Restituire al controllo pubblico le grandi reti infrastrutturali di telecomunicazione, a cominciare da quella futura sulla banda ultralarga. Per il governo il piano, che stanzia 6,5 miliardi in 5 anni per la fibra ottica, si sta trasformando in una grande occasione, cioè riaffermare il ruolo statale nelle autostrade telematiche strategiche attraverso l'Enel, colosso elettrico controllato dal Tesoro. Entro maggio, infatti, l'esecutivo dovrà determinare modalità e quantificazione degli incentivi per costruire la nuova rete, e l'azienda, guidata da Starace, nelle valutazioni del governo, ha le caratteristiche per diventare il candidato migliore per accelerare sulla banda di ultima generazione. Poi c'è tutto il racconto del report dell'esecutivo, che affiderebbe dunque a Enel le chiavi di questo progetto. Ma non basta. Renzi, secondo Repubblica, ha in mente anche un polo delle torri TV. E cioè questo: le infrastrutture radiotelevisive, le cosiddette torri, quelle al centro della fallita OPA della berlusconiana A-Towers contro Rai Way. Anche in quel campo la linea di fondo è non perdere il controllo pubblico, anzi l'intenzione è semmai di provare a costituire una nuova società che metta insieme le antenne televisive in una sorta di consorzio che può agire anche da ente regolatore. In quel caso parteciperebbero Rai Way, A-Towers e le torri di Wind, di recente passate nelle mani della spagnola Alberto. Anche se le grandi manovre nel sistema radiotelevisivo sono solo all'inizio, probabilmente toccheranno anche soggetti privati che operano in Italia. Sapete che c'è, da Mediaset a Sky fino alla stessa Telecom, grandi movimenti in atto. Beh, è interessante, sono due pagine intense di economia, finanza e riguarda le telecomunicazioni su Repubblica a pagina 2 e 3. Si discute anche molto in Europa riguardo alla immigrazione, ci sono tanti articoli interessanti al riguardo. Beh, sorvolo sull'inizio dell'articolo del Corriere della Sera a pagina 2, Marco Galluzzo, inizia così l'articolo: inizia oggi una settimana decisiva. Voi capite un po' il mio dramma. Comunque la settimana decisiva per il Corriere della Sera, che inizia oggi, è quella in cui si dovrà decidere a New York, nell'ONU, se utilizzare la forza contro i trafficanti di uomini. Speriamo che succeda qualcosa, che si prenda una qualche decisione, però il Corriere della Sera dice che la settimana decisiva inizia. C'è anche sulla Stampa un'intervista al segretario generale della NATO che dice: siamo pronti in caso a fare il nostro lavoro. Stiamo a vedere che succede. Per quel che riguarda la politica invece, la politica, ci si concentra sulle liste in campagna di alcuni personaggi che appoggiano De Luca. Sapete che Saviano ha detto: lì in quelle liste c'è Gomorra vera e propria, in alcuni candidati ovviamente. De Luca, gli impresentabili in lista, l'alt di Cantone sui rischi in campagna, pagina 11 del Corriere della Sera. Ormai tutti li chiamano così. Con De Luca ci sono anche gli impresentabili. L'ultimo, che viene intervistato da Fabrizio Roncone, cioè nel senso non viene intervistato lui, ma è un candidato, tale Vincenzo De Leo, che a Casal di Principe è segretario del Fronte Nazionale, lista civica che appoggia De Luca e che si rifà ad Adriano Tilger, fondatore di Avanguardia Nazionale, inquisito per le stragi del treno Italicus, accusato di essere un fascista. E che ci fa un suo uomo ad appoggiare De Luca? Adriano Tilger spiega tutto a pagina 11 del Corriere della Sera, racconta di un partito democratico che ha una magnifica contaminazione dentro di sé, per cui è permesso anche a un uomo di destra candidarsi col PD. Vabbè, c'è una bella contaminazione con il nostro esponente, noi vogliamo infrangere, ribellarci e lottare insieme. Il candidato di Avanguardia Nazionale. Per la verità, il Fatto Quotidiano dice che per la prima volta Vincenzo De Luca ha affrontato questo tema scabroso. Pagina 2 del Fatto, Vincenzo Iurillo racconta che ieri a Caserta, secondo il sito Interno 18, De Luca ha detto questo: effettivamente ci sono state candidature non opportune dal punto di vista politico, non ho potuto verificare tutto e dico ai cittadini non votate queste persone. Quindi De Luca che prende le distanze da alcuni candidati che lo appoggiano. Vabbè, c'è solo il tempo per la carta costa. Ah beh sì, la Gazzetta, l'Inter salta sull'Europa, vabbè, insomma, a parte questo. Ma non è questa la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, ieri era la festa della mamma. Una pagina del giorno sulla mamma che non ha più confini, allora celebriamola tutto l'anno la mamma, e soprattutto quale icona di mamma? Quale? Kate, no, basta, la principessa Kate Middleton. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che te vozzino via fuoco. Milan, il cagnasso randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua cari ascoltatori, vogliamo parlare delle pensioni. Ci sono milioni di pensionati in Italia che stanno con il fiato sospeso, per la verità anche tutti gli altri italiani, perché qualsiasi cosa il governo deciderà sulla questione pensioni, questo inciderà certamente sui conti pubblici. Allora, la vicenda ormai forse la conoscete. Comunque, nel 2011, governo Monti, la legge Fornero, che viene inserita nel decreto Salva Italia, blocca per 2 anni l'indicizzazione delle pensioni. Di recente la Corte Costituzionale dice che tutto ciò non va bene, è illegale, non è costituzionale per l'appunto. Boccia quella parte della legge Fornero, risultato dice dovete restituire i soldi ai pensionati, i pensionati che non hanno goduto in questi 2 anni dell'indicizzazione, ridate loro i soldi. Che farà il governo? Oggi il Sole 24 Ore la pone così: rispettiamo i diritti, e cioè una sentenza della Corte Costituzionale, oppure stiamo attenti ai conti pubblici? È il dilemma per il governo Renzi. Si parla di una 16 miliardi, chi dice 19 miliardi da restituire, insomma anche le cifre un po' ballano. Devo dire che ci sono partiti che attaccano. Sentite per esempio Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, a Mattino 5 cosa annuncia. Noi metteremo a disposizione un pool di avvocati, se il governo non dovesse restituire questi soldi agli italiani, per fare tutti i ricorsi che serviranno, perché i soldi il governo per la gente normale li deve trovare come li ha trovati per i pensionati d'oro. Allora, così dice Giorgia Meloni. Devo dire che il primo che ha avuto il merito qualche giorno fa politicamente di metterci la faccia su un tema così scottante è stato il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che di pratica ha detto che sarebbe immorale dare indietro, soprattutto ai pensionati, quelli che guadagnano di più, tutti i soldi. Apriti cielo, ci sono state polemiche. Enrico Zanetti, buongiorno e benvenuto, sottosegretario all'economia, nonché segretario di Scelta Civica. Allora, che facciamo? Oggi sa che i titoli dei giornali dicono Renzi si tiene la pensione, questo è il giornale, oppure il Secolo XIX, lo Stato si fa lo sconto, cioè che Stato è quello in cui non si rispetta una sentenza della Corte Costituzionale? Guardi, sul fatto che la sentenza della Corte Costituzionale viene rispettata, francamente non ci piove. È l'assolutismo, si restituisce tutto, si restituisce niente, che non funziona. La sentenza della Corte Costituzionale non ha mica bocciato la possibilità di prevedere interventi quali quello del parziale blocco delle indicizzazioni, tant'è vero che in passato, ad esempio nel 2008, in quel caso erano le pensioni sopra 3.500 euro, la Corte Costituzionale disse che il blocco che fu fatto quella volta allora dal governo Prodi era costituzionale, cioè la Corte ha bocciato quel tipo di intervento giudicandolo dal suo punto di vista lesivo di diritti, in quanto evidentemente troppo troppo stringente, sì. Il che vuol dire, che non vuol certo dire che non sia possibile, nell'ovviamente riconsiderare quel provvedimento come fuori gioco, che non sia possibile prevederne altri con una gradazione che viceversa possa incontrare il favore della Corte Costituzionale, questo favore tema che ha già concesso ad altri interventi. Questo tema della gradazione, cioè traduciamolo, vuol dire che si potrà restituire, che magari, come ho detto da subito, da ovviamente sì, ponendo il punto politico di Scelta Civica, che è uno dei tre partiti che sostiene la maggioranza e che ha offerto il suo punto di vista al ministro Padoan, cui compete ovviamente la sintesi, una sintesi che però deve ovviamente tenere conto poi dei voti da trovare in Parlamento. Come ho detto da subito, la risposta è ovviamente attuare la sentenza, rispettare la sentenza, ma farlo anche rispettando l'equità intergenerazionale, perché vede, in un contesto in cui per la sostenibilità del nostro sistema pensionistico sono stati chiesti sacrifici molto rilevanti ai cinquantenni, quarantenni di oggi, ai giovani, cioè ai pensionati di domani, che non andranno in pensione col sistema retributivo che c'è ancora oggi, ma con un sistema molto peggiore che quello contributivo. Nell'istante in cui sono stati chiesti sacrifici più che sostanziosi anche ai quasi pensionati, che in vista del traguardo ci sono visti spostare l'asticella, beh, è fisiologico che anche ai già pensionati si chieda qualcosa. Un sacrificio minore, ovviamente minore, perché man mano che l'età avanza è tutto un legittimo affidamento, sotto forma di blocco dell'indicizzazione. E vabbè, però questo in parte è stato bocciato, no? Ecco, abbiamo oggi detto, la Corte Costituzionale dice quel tipo di blocco non va bene. Benissimo, restituiamo, ma come dicevo prima, non gradatamente, più elevate. Ecco, mi faccia capire se lei, come responsabile di Scelta Civica, ha dato delle cifre, ha già un'idea, cioè restituiamo, che ne so, a tutti coloro che guadagnano fino a tot, un tot per cento. La sintesi compete appunto al ministro, sì, che ha avvocato la sua opinione, però il fascicolo, e quindi attendiamo poi di vedere la quadratura dei numeri che ci darà. E ovviamente comunque noi siamo un partito che, anche se ama come tutti prendere voti, abbiamo quel minimo di freno inibitore in più di altri. Sì. Ho sentito prima quello che mi diceva sentivo la dichiarazione della Meloni. Io ricordo che la Meloni voleva fare un intervento addirittura per togliere il retributivo a tutti i pensionati, lo ha portato in aula, gli è stato bocciato e ci ha accusato tutti di essere dei disgraziati, adesso vuole fare il ricorso per tutti. Per carità, dice lei vuole che vengano restituiti i soldi, ma guarda che molti dicono dovrebbero essere restituiti i soldi a tutti. Se io ho un debito di 100 euro con Equitalia, non è che posso dire ve ne do 80, perché 20 mi sembrano un po' troppo di quello che mi chiedete in termini di tasse. Lo comprendo perfettamente, anche io vorrei che questo accadesse. D'altro canto, se quella misura fu fatta all'epoca, fu proprio perché i soldi non c'erano. Se oggi restituiamo tutto a tutti, ritorniamo da capo in nella quelle situazione. Situazioni. Mi dica, credo che ecco, sia. Mi dica un suo tetto, il suo personale, poi la sintesi spetta allora, al ministro Padoan. Scelta Civica ha già depositato un disegno di legge sul tempo, proprio per una rivisitazione delle pensioni più elevate, e noi avevamo fissato 5.000 euro, che mi sembra una cosa più che ragionevole. 5.000 euro netti lordi? 5.000 euro lordi, lordi. 5.000 lordi al mese. Devo anche dire però che nel 2008 la Corte di Costituzionale giudicò legittimo il blocco delle indicizzazioni per un anno per le pensioni 8 volte superiori alla minima, quindi diciamo 3.500 lordi. Allora vedremo quali numeri esattamente arriveranno. Questi sono due numeri, uno è nostro, uno è della Corte Costituzionale, che sicuramente possono essere presi a riferimento. Cioè, quello secondo lei, o 5.000 lordi o 3.500 lordi, sopra questo non è come definirebbe, immorale restituire le indicizzazioni? Ma l'immoralità, vorrei che fosse chiaro, non è legata ovviamente a chi prende queste pensioni, no. Che fa benissimo a prenderle e ci mancherebbe, è legata semmai a una politica che non nascondesse la testa sotto la sabbia e per questioni di appunto favore elettorale non si ricordasse che nell'istante in cui sono stati chiesti sacrifici grandi ai non pensionati, non chiederne anche ai pensionati con pensioni più robuste, sarebbe per l'appunto una scelta politica e morale, non c'entrano nulla i pensionati, è una valutazione sulle scelte politiche. Ma è chiaro, sulle scelte politiche. Allora, sottosegretario Zanetti, le faccio ascoltare colei che fu l'artefice primaria di questo provvedimento, poi come ben sa di quel governo Monti è stata anche molto bersagliata, soprattutto per la vicenda dei soldati, eccetera. Vale a dire Elsa Fornero si trova a New York, la nostra Elisabetta Fusconi l'ha raggiunta, sentiamo Elsa Fornero, ex ministra del welfare, che ha detto della Corte Costituzionale e anche di quel governo. L'idea che ci sia possibilità di trovare le risorse nell'ambito dello stesso sistema previdenziale, togliendo qualcosa a chi ha di più, senza avere magari pagato con i propri contributi queste pensioni, io credo che sia non solo giustificato, ma faccio fatica a pensare che non sia nello spirito della nostra Costituzione. Purtroppo una cosa di cui mi sono accorta è che quella riforma, che era difficile, dura, ma o siamo stati tutti ingannati oppure l'alternativa era una crisi finanziaria, in quel momento se ci fosse stata anche più coesione, se la gente avesse percepito che chi ha privilegi fosse stato più disposto a rinunciare a questi privilegi, io credo che il paese avrebbe ritrovato forse più coesione, e io credo che la coesione sia necessaria per riparlare di sviluppo. L'ha amareggiata sentire un esponente del PD come Orfini dire che il governo dei tecnici di Monti comprendeva alcune pippe? Certo, per me stessa molto, ma devo anche dire che ho pensato quanto è caduto in basso questo partito per avere un presidente che si esprime in quel modo. Che il presidente del Partito Democratico usi un linguaggio di questo tipo è davvero triste. Allora, sottosegretario Zanetti, erano pippe, faceva parte di quel governo Monti che poi ha fondato Scelta Civica, di cui lei è segretario. Sì, oddio, Scelta Civica è nata alla fine del 2012, però Monti nasce non da c'è Monti. Più da ottobre 2013, e da quando sono diventato segretario io, 2 mesi fa, non ci sono più nemmeno tutti i montiani che avevano diritto che avevano diretto il partito e sono scappati tutti. Però che ne pensa del giudizio tecnico di Orfini? Vedere una significativa continuità mi sembra arduo, ecco, voglio dire, ci sono alcuni dati oggettivi che credo evidenzino come c'è una linea politica significativamente diversa nelle persone e negli obiettivi, pur naturalmente nell'assoluto rispetto della figura nostro fondatore. Certo, ma quello che ha detto Orfini lei un pochino, cioè, come dire, è sbagliato. Fornero si è molto arrabbiata per questo giudizio. Io credo che sicuramente, non uso quell'espressione e condivido che chi ha una carica di presidente del primo partito italiano dovrebbe francamente pensarci un attimino prima di usarle, perché anche così si contribuisce proprio all'imbarbarimento del dibattito politico. Io credo che professionalità non adeguate ce ne siano in abbondanza, lo riscontro anche adesso, ma prima ancora che chi ha ruolo di governo nella pletora di tecnici di sottogoverno che coadiuvano i ministri sottosegretari di turno. Ecco. Se noi continuiamo a cambiare semplicemente parlamentari e ministri, ma gli altri dirigenti della pubblica amministrazione per il 90% continuano a essere sempre gli stessi, siamo a posto. Le chiedo, sottosegretario, ho letto anche questa: non verranno restituiti contanti ma bot o titoli di Stato. È un'ipotesi allo studio? Le pare francamente verosimile? No, guardi, io di questa, se è allo studio, ancora non è minimamente filtrata nemmeno all'interno del Ministero. Io di questa non ne ho ancora sentito parlare, non mi sembra un'idea un po' particolare, forse chiaramente legata agli arretrati potrebbe avere un significato, però al momento non se ne è assolutamente sentito parlare. Però a tutti quelli che dicono risparmiate i soldi dallo Stato, fate la spending review, tagliate la spesa pubblica, ma dateli indietro tutti questi soldi, lei ancora... No, guardi, la spending review la stiamo facendo. La faremo, dobbiamo raggiungere obiettivi già importanti, però per fare cosa? Per evitare, come non accadrà infatti, che aumenti l'IVA l'anno prossimo. L'IVA l'anno prossimo non aumenterà, per non farlo aumentare servono 16 miliardi, li stiamo trovando, li troveremo e l'IVA non aumenterà. Se no scatta la clausola di salvaguardia. Io sinceramente di far aumentare l'IVA per ridare i 100 euro in più al mese anche chi ha pensioni sopra i 5.000 euro non ci penso nemmeno. E se qualcuno lo pensa vuol dire che ha come unico obiettivo mettere in difficoltà il governo, anche se questo magari vuol dire mettere in difficoltà tutti noi, tutti i cittadini, tutto il paese, deve vergognarsi. L'ultime due cose, sottosegretario, è questa, ma mi faccia capire questa patata bollente, perché Renzi su questo non parla, è vero vero che la sintesi spetta a Padoan, ma è davvero delicata? Cioè, temete che l'Europa mercoledì possa dirvi qualcosa e dirci qualcosa? Ma guardi, la ringrazio anche per la domanda. Invece, secondo me, il premio in questo caso sbaglia, no? Parlare a lasciare su Padoan, perché vede il motivo per cui ho ritenuto importante invece intervenire da un punto di vista politico. È perché se noi continuiamo sempre soltanto a valutare tutte le cose solo in funzione della tenuta del bilancio, e per forza la gente si arrabbia. Cioè, Renzi dovrebbe dire cosa, secondo me? Dovrebbe andare quello a... ovviamente, non posso che dirle, quello che ho detto io. Cioè, che qui noi non restituiamo a tutti, non perché ce lo chiede l'Europa, perché non dobbiamo sforare il 3%, perché uno più uno fa due, non esiste solo la matematica. Ma perché? Ma perché politicamente, nell'istante in cui noi abbiamo chiesto sacrifici enormi ai non pensionati, ai pensionati italiani, noi non possiamo costruire un sistema in cui invece a chi è già pensionato non chiediamo nessun sacrificio. Ovviamente è giusto che gliene siano stati chiesti di meno, solo un blocco dell'indicizzazione, non addirittura sottrazione di soldi. È giusto che il legittimo affidamento ci deve essere per chi è avanti nell'età. Ma tu non puoi chiedere 100 e non metterlo in discussione, mentre gli altri chiedi 10 e viene messo in discussione e sta a zero. Perché è così che scateni le guerre generazionali nel paese. Non possiamo avere un paese che continua a declinare tutti i diritti solo al passato. Non si tutelano le pensioni, guardi, solo chi è già pensionato. Posso dire non che io si su tutela questo... il lavoro, solo chi è già al lavoro. Posso dire non che io su questo sono d'accordo, ma sa, quanti sono i pensionati? Lo sa, meglio di me, 3 milioni, 3 milioni e mezzo, quanti sono? Quanto blocco di voti portano? Ma io sono d'accordo con lei, ma voglio dire, allora, e per questo ci arrendiamo tutti a fare la politica a ribasso o proviamo insieme a fare la famosa all'assegno pensionato? E guarda che ci sono tanti pensionati, lo sto vedendo in questi giorni, che la pensano esattamente come lo sta dicendo lei e come lo sto dicendo io. Si può, se si ha il coraggio anche di esporsi, si può riuscire a dialogare con le tante persone che hanno voglia di trasformare questo paese in una comunità e non in una caserma dove chi c'è c'è e chi ancora non c'è deve farsi carico. Guardi, io consiglio per concludere, consiglio anche la lettura di Gian Antonio Stella oggi sul Corriere della Sera. Io l'ho fatto in rassegna stampa, elenca le persone che oggi dicono ah, assolutamente ridate indietro i soldi, che vergogna, che schifo, e poi in Parlamento nel 2011 votarono, nel dicembre 2011 votarono. Mentre io ad esempio, mentre io e tutti i deputati di Scelta Civica ad esempio nel 2011 quella roba non l'avevamo votata, ma abbiamo la dignità di dire che probabilmente se fossimo stati in quel momento credo lo avremmo fatto. L'avreste mentre fatto. Molta gente che lo ha proprio fatto dice il contrario, si vergognino. Va bene, sottosegretario, intanto è la settimana in cui si deciderà, perché pare che entro venerdì arriverà questa decisione, staremo a vedere, la richiameremo. La ringrazio intanto il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, anche segretario di Scelta Civica, ci ha spiegato la sua posizione personale e anche la sottosegretaria all'economia di quello che bisognerebbe fare per affrontare questa patata non bollente di più, che veramente ustiona le mani, perché che succede? L'Europa ci guarda, quanti soldi ci costerà questa questione? Lo vedremo, eh. Intanto dopo la pubblicità parleremo di Rom. Quanto paga il comune di Roma per le famiglie Rom? Tra poco. Sono le 8:39 minuti, allora vi vogliamo dare una cifra da cui vogliamo partire per parlare della situazione Rom. Ci sono state tante trasmissioni, ce ne sono ancora, anche molto urlate, molto polemiche, dei rapporti tra noi e la comunità Rom e Sinti. Allora sapete, e ho qua davanti un rapporto del Comune di Roma, su quanti sono i costi nel 2014 per mantenere nei 2, 4, 6, 8 centri 242 famiglie. Sapete quanto spende il Comune di Roma? Spende per 242 famiglie Rom e Sinti 8.053.544 euro al mese. Sono una spesa annua media per ogni famiglia di 33.279 euro. Libero ha titolato così: sono 2.750 euro al mese per ogni famiglia Rom pagata dal Comune di Roma. Allora, saluto Carlo Stasolla che presiede l'associazione 21 luglio. Buongiorno Stasolla e ben ritrovato. Buongiorno a voi, grazie per l'accoglienza. Allora, questa cifra fa sobbalzare molte persone, lei lo può capire, questo lo può immaginare, o no? Certo, voglio premettere che il rapporto non è stato fatto dal Comune di Roma, ma è stato fatto dal nostro... Da voi, sì, per il Comune di Roma, sì, questa è una precisazione giusta. Ecco, questa cifra fa sobbalzare e fa dire che cosa? Secondo lei fa legittimamente indignare molti cittadini? Assolutamente sì, fa indignare i cittadini, fa indignare anche la comunità rom, visto che di questi soldi non un centesimo va ai rom per un processo di inclusione, ma va semplicemente a tutto il sistema associativo che si muove attorno al sistema campi rom, ovvero centri di raccolta. Cioè, mi faccio capire, di questi 8 milioni di euro non un centesimo va ai rom, beh, che cosa servono? A far funzionare in teoria i centri e i campi dove vivono, no? Sì, serve a far funzionare i centri, centri che sono, non hanno alcun requisito strutturale organizzativo a norma di legge per essere aperti e mantenuti, e soprattutto al loro interno non sono previsti percorsi di uscita, percorsi di inclusione, per cui il sistema è fatto per mantenere le persone al loro interno in un assistenzialismo completo, un assistenzialismo che lede anche i diritti umani, visto che all'interno abbiamo rilevato una serie di violazioni importanti dei diritti fondamentali. Percorso di inclusione che vuol dire? Perché sai che per molti il percorso di inclusione è semplice: una famiglia rom va in un'agenzia immobiliare e se vuole si compra una casa, come fanno tutti, visto che molti di loro sono italiani, come fanno moltissimi italiani, fanno un mutuo, vanno nelle banche e questo devono fare. Certo, è quello che fanno 4/5 dei rom in Italia, visto che 4/5 dei rom in Italia vivono in abitazioni convenzionali. C'è un quinto di rom che vive, diciamo, in una situazione di precarietà economica e sociale, come altri cittadini che vivono tale situazioni, sono posti all'interno, perché è il comune che lo fa, all'interno di un circuito socio-assistenziale all'interno del quale dovrebbero esserci delle spinte verso l'uscita dal centro, verso soluzioni abitative e lavorative autonome. Però 8 milioni, lei capisce, il quotidiano Libero l'ha messa in raffronto a un'altra cifra, a dire 2.750 euro al mese a una famiglia rom, quando invece il Comune di Roma paga per esempio ai disabili al 100% 750 euro, forse 800 euro quando va bene al mese. Questi soldi vanno dati a italianissime associazioni, cioè, il dettaglio è che gli 8 milioni non vanno dati né per i rom né ai rom, vanno dati alle associazioni che gestiscono questi campi e che sono italianissime, fatte di operai e fatte di lavoratori italiani. Sì, ma mi faccia capire, Stasolla, ma perché esiste ancora questa cultura del campo? Cioè, perché un quinto di rom vive ancora in queste situazioni in grandi comunità? Solo loro lo fanno. Ci sono tanti italiani indigenti, ma non è che vivono in un campo e pretendono soldi da parte delle amministrazioni. No, i rom non pretendono soldi, si vive nel campo perché in Italia, solo in Italia e nello specifico solo nella città di Roma a livello europeo, esiste un sistema che si è andato affinando negli anni, un sistema che, come dice tu, Buzzi, come ha detto Buzzi, produce molto denaro. Quindi, di Buzzi fatto, è quello indagato, l'ex presidente della cooperativa indagato. Sono delle amministrazioni in questo anno che spingono verso il mantenimento di un sistema campi, non c'è un discorso culturale da parte dei rom. Cioè lei sta dicendo che è un sistema che permette ad alcune associazioni di speculare. Sì, anche ad alcuni amministratori poi di avvantaggiarsi nell'avere dei voti accontentando determinate associazioni. Ma guardi, io credo che se un politico, un qualsiasi amministratore di città non avesse il problema, perché è un problema, non neghiamolo, di avere un campo rom nel proprio comune, penso che sarebbe contento, o no? Lei non crede? O dice da una parte sì, dell'altra scontenterebbe chi riceve poi gli 8 milioni di euro. Che si tratta, noi abbiamo l'anno scorso abbiamo fatto un altro rapporto dove abbiamo dimostrato che sono 35 le organizzazioni, le associazioni che lavorano al sistema campi. Quindi il comune da una parte deve decidere se accontentare queste 35 organizzazioni che rappresentano un importante bacino di voti o lavorare per l'uscita e il superamento dei campi. Quindi lei Stasolla mi sta dicendo che un quinto di rom che ancora vivono non in maniera stanziale, vivono nei campi, sarebbero ben felici di non vivere più nei campi. Ma assolutamente sì, questo qua tante ricerche nostre che abbiamo fatto lo hanno dimostrato. Di fatto c'è un sistema che ha prodotto questa degenerazione. E oggi chi è che vuole veramente il campo e chi sul campo ci guadagna e ne trae grossi interessi e grossi profitti. Quindi vogliono fare così. Vabbè, e chi risponde alla vulgata che c'è sempre sul fatto rubano, vivono di espedienti? L'ha vista anche lei un servizio delle Iene di recente, c'era ha visto venerdì scorso. Ma sa, dire che i rom rubano è come dire che i politici sono corrotti, che i siciliani sono mafiosi e che i veneti non pagano le tasse. È chiaro che c'è una percentuale, soprattutto quella che vive più ai margini, più ghettizzata, in cui l'incidenza della criminalizzazione è più elevata. Questo è un dato di fatto, ma ogni generalizzazione chiaramente va evitata per evitare di fare tutto un arbo un fascio. Non crede, in conclusione, Stasolla, che questi 8.053.544 euro il Comune di Roma, che spesi, ripeto, per gestire 242 famiglie, però lei dice non vanno direttamente a loro, ma a chi gestisce questi campi, dovrebbero essere azzerati da domani, così, azzerati, zero, e ognuno viva con le proprie opportunità, con i giusti sistemi di welfare, con le solidarietà, se c'è bisogno di entrare nelle graduatorie per le case popolari lo faccio. No, noi siamo i primi a lottare per un giusto sistema di welfare, e questi 8 milioni sono soldi buttati, e quindi azzerare questi soldi e avviare un giusto sistema di welfare è quello che noi riteniamo sia opportuno. E questo è un messaggio importante. Quindi lei sarebbe il primo a dire: noi dell'associazione 21 luglio che abbiamo fatto questo rapporto non li vogliamo più questi soldi, non devono essere più stanziati dai comuni di Roma o dagli altri comuni. Sì, noi per statuto non possiamo accedere a finanziamenti pubblici, quindi siamo quelli più indipendenti e meno interessati ad avere o non avere questi soldi, è chiaro. Va bene, io allora la ringrazio Stasolla, ricordo Carlo Stasolla è presidente dell'associazione 21 luglio, ha fatto questo rapporto, se volete lo metteremo anche a disposizione, un link ovviamente internet, ci potete scrivere 24 mattino e radio24.it, lo metteremo anche sul nostro sito, il link del rapporto, così andate a vedere quanto spende il Comune di Roma, ripeto, 8.053.544 euro nel 2014 per mantenere 242 famiglie nei 8 campi romo, insediamenti rom che ci sono nel Comune di Roma. Ale! Lavoratori! Chi non lavora? Ebbene sì! Tornano i nostri lavoratori, persone che ci raccontano via mail, e poi noi li invitiamo in onda, via mail a 24mattino@radio24.it è la nostra mail, il proprio lavoro, la propria passione, la propria professione. Oggi voglio salutare Monica, buongiorno Monica. Buongiorno. Che buongiorno. Ci ha scritto tanto tempo fa e ci ha raccontato come lei realizzi, io la leggo così, ritratti su commissione, sì, usando dei materiali insoliti. Ecco, vuol dire tutto e niente. Vuol dire vecchi cataloghi di carta d'apparati, vecchi ingranaggi di orologi, ho usato bottoni, uso pezzi di pellame, insomma. Cioè, ma ritratti di persone, Monica? Ritratti di persone, certo. Sì. Ho iniziato casualmente facendo il ritratto di una nonna che io ho amato molto, una persona a cui ero legatissima, che quando compì 100 anni, insomma, che mi sembrava giusto tributargli comunque qualcosa di un po' particolare, gli feci questo ritrattone, diciamo, in guisa di Leonora di Toledo, moglie di Cosimo I dei Medici. Ma con che materiale? Con la carta e la stoffa. E quindi questo ritratto poi ebbe un grande successo chiaramente nella cerca degli amici, per cui molti amici cominciarono a chiedermi di farlo. Fantastico, cioè, e quindi da lì non so, un ritratto con i bottoni, ma poi vengono dipinti, immagino, perché oppure... No, è soltanto un problema di forbici e di colla. È soltanto questo. Ho foglie secche, per esempio, utilizzo anche, sì, tutti questi materiali, diciamo, da riciclo in effetti. Sì, sì. E poi per quanto riguarda... Ah, ho capito, ma non so, in base alla fisionomia di una persona, in base al colore dei capelli... No, io prendo proprio una bella fotografia, diciamo, della persona che devo ritrarre, loro mi danno chiaramente del materiale, una bella fotografia è il punto di partenza, certo. No? E poi in base a com'è la persona io posso naturalmente montare questo viso su un corpo di... anche di animali a volte. Ah, fantastico. Sono molto fantasiosi. Non sono esattamente qualcosa di fermo e così, come posso dire. Lo so, le arrivasse Monica una commissione, non so, di vediamo alcuni famosi. Renzi, per esempio, glielo feci giusto per farmi pubblicità, naturalmente, sì. Devo dire, per onor del vero, che lui non me l'ha mai commissionata, ma quando ci fu il ballottaggio per sindaco di Firenze, sì, e lui era in ballottaggio viaggio con Giovanni Galli, il portierone della Fiorentina e della Juventus, e del Milan, per la verità, sì, è stato al Milan, non alla Juventus. Oddio. Vabbè, ma non importa. Io non sono brava per il calcio. non importa. E che ha fatto? Mi ricordavo però che nella squadra della mia città, della Fiorentina, c'era stato. No, sbagliato? Certo. No, certo. Ok. Fiorentina e Milan. Comunque lui è amatissimo, naturalmente, nella nostra città. Andò a ballottaggio con Matteo Renzi, che aveva la vittoria in tasca, e in effetti. Però feci questo duplice ritratto in cui Galli era ritratto, mi sembra, da un... l'avevo preso come modello un ritratto del Pontormo, e Renzi invece mi sembra del Bronzino. Però in effetti, se uno va sul sito a vedere, perché ho la liberatoria naturalmente di tutte e due, si vede che insomma sono abbastanza azzeccati come atteggiamento. Monica, è una scelta comunque che va un chiaro. Ma è chiaro, ma va anche un po' perseguita, eccetera. Allora, Monica, intanto il sito, che così la gente... Il sito è www.monicacollage.it. Giusto, collage, Monica Collage, se la vogliamo, monicacollage.it. E uno commissiona, quanto viene più o meno? Dai, diciamolo, quanto può venire un ritratto? Ma sui 250-300 euro. Ce la caviamo così, ce la caviamo così. Sì, Monica, allora, sei di Firenze, questo mi sembra averlo capito. Firenze, si sente? Poi ci hai raccontato la tua città, il pallottaggio, quindi che sei toscana, sicuramente non mi sarei mai permesso di dire che sei di Livorno, di Pisa o di altre parti. Grazie a Monica. Allora, monicacollage.it, www.monicacollage.it. C'è spazio per un ascoltatore? Sì, Antonio da Pisa. Allora, stiamo in Toscana. Antonio da Pisa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che ci voleva dire per concludere? Ma io era un intervento legato a quello che oramai si dice sempre: quando si fa un intervento sulle pensioni, perché c'è un conflitto intergenerazionale. Ora io racconto il mio caso, ma non è mio e basta, di tutti o di tanti. Io ho 68 anni, sono andato in pensione 2-3 anni fa, dopo 42 anni di contributi. E gli hanno bloccato l'indicizzazione? No, a parte quello, prendo 1.400 rotti euro al mese. Voglio dire, ma dove sta il mio conflitto intergenerazionale nei confronti dei giovani? Ma infatti, guardi che lei, Antonio, con quella cifra mi sa che gli daranno l'indicizzazione. Cioè, però il sottosegretario diceva: quelli che prendono 5.000 lordi è la proposta di Scelta Civica, o 3.500 fu una proposta della Corte Costituzionale. Forse a questi possiamo dire chiediamo dei sacrifici anche a loro? A lei che ne prende 1.400, sono d'accordo, ha diritto ad ottenere i soldi che la legge Fornero, il Blocca Italia, nel Salva Italia, ha bloccato, e lei certamente non, dopo tanti anni di contributi non ruba niente a nessuno con quella pensione lì, capito Antonio? Ma altri magari non rubano, ma un sacrificio se si chiede a tutti, o no? È così scandaloso? Comunque, con questo dilemma di Antonio da Pisa chiudiamo. Saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione, insieme al nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani alle 6.30. Noi siamo qui puntuali con 24 Mattino. 24 Mattino.